Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari amiche, cari amici, siamo alla vigilia di un Natale non facile per molti italiani. Mi verrebbe da dire piove, governo ladro. Anche se bisogna dire non piove, la situazione è grave, lo smog sta praticamente strangolando diverse città, in primo luogo sicuramente Milano, perché ci sarà un blocco del traffico, è stato deciso proprio in serata dall'assessore alla viabilità milanese, un blocco negli ultimi giorni di dicembre, poi vi informerò più dettagliatamente su questa cosa. Insomma, è Berlusconi che torna a parlare in un videomessaggio, poi se abbiamo tempo sentiremo anche qualche altro passaggio. A proposito di Renzi, che è attaccato duramente Berlusconi, oggi il Presidente del Consiglio Renzi era all'inaugurazione della variante di Valico sulla 1 e ha fatto un bilancio lì presente a questa inaugurazione del suo governo. Ha tratto un po' questa occasione dicendo: il 2015 si chiude con l'inaugurazione della variante, col successo dell'Expo, con l'occupazione che torna a crescere, le promesse si rispettano e le tasse scendono, perché se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. Se facciamo quello che dobbiamo fare siamo il paese più all'avanguardia, più innovativo e più attraente. Siete d'accordo con questo bilancio che Renzi fa del suo governo sinora, in particolare anche quest'ultimo 2015? A proposito, vi ricordo che questa è l'ultima puntata di Fettorotta del 2015, poi ci risentiamo con l'anno nuovo, quindi non perdete nessun istante di questa puntata sino alle 22, voi che state viaggiando in molti, perché oggi è stata definita giornata da bollino rosso, coloro naturalmente che sono a casa, chi è al lavoro, qualunque cosa stiate facendo, c'è sempre per voi la pagina Facebook di Fettorotta per intervenire con le vostre opinioni su questo bilancio che Renzi fa del suo governo, anche attraverso i messaggi al 349-238-6666 e poi su altri argomenti, per esempio questa ulteriore conferma della legittimità della stepchild adoption, perché la Corte d'Appello di Roma dice sia l'adozione per una coppia di donne omosessuali. Ricordatevi che quando finora si parla di adozione, di stepchild adoption, significa l'adozione del figlio dell'altra, di un figlio, di una figlia che già c'è, che ha partorito l'altra, insomma, e che diventa anche dell'altra mamma, qualsiasi cosa dovesse succedere. Ne parleremo col sottosegretario alle riforme Scalfarotto, insomma una puntata intensissima, parleremo anche di meteo. Voi sapete come intervenire, tra poco comincerò a leggere anche i vostri messaggi che già arrivano sulla pagina Facebook al 349-238-6666, ma naturalmente, come sempre, prima una sintesi della giornata. La vicenda delle banche: in una lettera alla Commissione europea avverte il governo italiano l'uso della garanzia sui depositi e aiuto di Stato, e intanto l'antitrust dice nessun conflitto di interesse per la Boschi. Grandi opere: Renzi inaugura dopo 9 anni di lavori la variante del valico sulla 1, ma oggi lunghe code, secondo Federalberghi per le feste partono 12,8 milioni di italiani. Terrorismo: fermata e poi rilasciata a Palermo una ricercatrice libica in Francia accusata di istigazione al terrorismo, il GIP la rimette in libertà, non c'è pericolo di fuga, dice, ma il procuratore antiterrorismo Roberti non condivide. Unioni civili: la Corte d'Appello di Roma dice sì a due mamme per la stepchild adoption. Il terremoto in Abruzzo: scarcerato Livio Bearzi, preside che era in detenzione per il crollo del convitto scolastico all'Aquila nel 2009, affidato in prova ai servizi sociali. E inquinamento: lo smog soffoca le città, blocco delle auto a Milano dal 28 al 30 dicembre. Partiamo quindi dalla vicenda delle banche, ancora protagonista nelle cronache italiane e non solo, perché l'Unione Europea avverte il governo italiano l'uso della garanzia sui depositi e aiuto di Stato. Intanto arriva la bocciatura per la banca Tercas. Una lettera che doveva restare segreta, ma che il governo alle strette rende pubblica sul decreto banche nel giorno in cui Bruxelles boccia il salvataggio di Tercas. È il 19 novembre, mancano 3 giorni al provvedimento del governo per coprire le perdite della mala gestione di 4 banche, servono 1,7 miliardi di euro. L'esecutivo vuole usare il fondo interbancario di garanzia sui depositi. Da Bruxelles emerge un orientamento negativo. L'utilizzo è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e se la valutazione porta a concludere che esiste, scatterà la risoluzione di Bruxelles. Disco verde invece se è un puro intervento privato. La Commissione europea si difende, dice che spetta però alle autorità italiane determinare l'approccio e i metodi della politica. Per il governo di fatto è un disco rosso, e a riprova della tesi dell'esecutivo arriva la bocciatura della Commissione europea su Banca Tercas, perché il fondo interbancario è stato un aiuto di Stato incompatibile. Risponde il Tesoro: nessuna conseguenza negativa perché è già pronto l'intervento intervento del fondo volontario del sistema bancario. Nel frattempo l'antitrust risponde al Movimento 5 Stelle: nessun conflitto di interessi del ministro Maria Elena Boschi sul salvataggio di Banca Etruria. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto la Guardia di Finanza ha perquisito la sede di Civitavecchia di Banca Etruria nell'ambito dell'inchiesta sul suicidio del pensionato Luigino D'Angelo avvenuto lo scorso 28 novembre, di cui abbiamo parlato subito effetto notte appena si ebbe la notizia. Si indaga per truffa, poi comunque torneremo a parlare di tutta questa questione delle banche nel bilancio della politica di questa settimana. Passiamo alle grandi opere. Dopo 9 anni è stata inaugurata la variante di Valico, il tratto della 1 tra Bologna e Firenze. Oggi è arrivato il giorno che sembrava non dovesse arrivare mai, ha commentato così il Presidente del Consiglio Renzi, inaugurando la variante che dovrebbe in futuro alleggerire la pressione del traffico. Oggi però, sia per l'inaugurazione sia per le prime partenze di Natale, ci sono state, come vi dicevo, code e pesanti rallentamenti. Ma sentiamo Renzi. È lo stesso sentimento di disillusione che avevano molti nostri concittadini quando dicevamo, nello stesso periodo dello scorso anno, faremo l'Expo e sarà un successo. Questo 2015 si chiude con la variante di Valico, si chiude con l'Expo che è stato un successo, si chiude con Pompei che domani inaugura 6 domus restaurate, si chiude con l'occupazione che torna finalmente a crescere dopo mesi in cui aveva avuto un segno negativo. Si chiude con il fatto che le promesse si possono rispettare. Mentre aspettiamo, Graziano mi ha fatto l'elenco e mi ha suggerito di dirvi che la prossima è la Salerno-Reggio Calabria. Questo è il bilancio dalla viva voce di Renzi, appunto, durante questa inaugurazione del suo governo. Siete d'accordo con questo bilancio essenzialmente altamente positivo nelle parole di Renzi? 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri sms, se no le vostre opinioni comodamente come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire in ogni momento senza indugio. È un'opera, quella della variante di Valico, tra l'altro, che dovrebbe appunto alleggerire il traffico. Ci sono voluti 24 anni per finirla, ma la variante di Valico ora è realtà. La nuova autostrada tra Bologna e Firenze affianca lo storico tracciato della 1, in esercizio dal 1964, e in cui restare incolonnati per il traffico, i lavori o le condizioni atmosferiche avverse era la norma. Il nuovo tracciato si snoda su una lunghezza di 59 km, oltre la metà in galleria, ed è costato 4,1 miliardi, il 60% in più del previsto. La variante di Valico attraversa l'Appennino a 490 metri di altezza contro i 726 dell'attuale tracciato e consentirà sia di ridurre del 30% i tempi di percorrenza, sia di risparmiare ogni anno 100 milioni di litri di carburante. Giorgio Costa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna. E adesso sentiamo Berlusconi, che vi dicevo che torna a parlare in un videomessaggio, sentiamo quest'altro passaggio. L'attuale Presidente del Consiglio, mai eletto al Parlamento, in forza di un voto di un solo italiano su 6 aventi diritto di voto, non solamente governa impossessandosi di tutto, per ultimo la Corte Costituzionale e la RAI, ma cambia anche la legge elettorale e la Costituzione, per costruirsi una, come dire, una finta democrazia fatta su misura per lui. Una sola Camera che fa le leggi, un solo partito che ha una grande maggioranza in questa Camera, un solo padrone, un solo dominus in questo partito. Un vero e proprio regime. Un vero e proprio regime anche per voi, ascoltatrici e ascoltatori. Anche su questo potreste naturalmente mandare la vostra opinione sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al numero che vi ripeto ogni tanto, 349-238-6666. Parliamo adesso di terrorismo, perché è stata fermata e poi rilasciata a Palermo una ricercatrice libica accusata di istigazione al terrorismo. Il GIP l'ha rimessa in libertà, dice non c'è pericolo di fuga, ma il procuratore antimafia e antiterrorismo Roberti non condivide e dice, rispettando le decisioni dei giudici, anche quelle che non convincono, io credo che ci fossero fondati elementi per la conferma della custodia, il giudice è stato di diverso avviso, rispettiamo, dice Roberti, ma rispettosamente non condividiamo. Poi ci occuperemo di questo, torneremo a parlare anche del tema piuttosto delicato, del questo labile confine tra la libertà d'espressione e l'istigazione al terrorismo. Unione Civili, la Corte d'Appello di Roma dice sì a due mamme per la stepchild adoption, che vi spiegavo all'inizio, appunto è una coppia omosessuale che vince anche in appello, c'è la sentenza del Tribunale dei minorenni, c'era stata dell'agosto del 2014, fu la prima sentenza in Italia a riconoscere la stepchild adoption, appunto l'adozione del figlio, della figlia, insomma del compagno, del partner, della compagna, figlia biologica di una delle due da parte appunto della compagna e della convivente. La coppia vive a Roma dal 2003. Ne vorrei parlare con il sottosegretario alle riforme del governo Renzi, Ivan Scalfarotto. Buonasera Scalfarotto. Buonasera a lei. Allora, a lei chiedo un commento su questa sentenza, anche se alcuni giorni fa, il 10 dicembre mi sembra, ne avevo parlato proprio qui a Effetto Notte, c'è una sentenza che è andata addirittura oltre questa, di due mamme che si erano italiane che si erano sposate, due donne in Spagna, poi si erano separate, però una delle due aveva avuto una bambina. Tornando in Italia, anche lì il tribunale ha detto che l'altra aveva diritto all'adozione e anche insomma a frequentarla con tutti i parenti, i nonni eccetera, proprio ancora più ampia, no, questa legittimazione. Sì, però io le chiedo scusa, ma facendo il sottosegretario alle riforme costituzionali non posso esimermi dal commentare un istante le cose che diceva Berlusconi prima sulle riforme costituzionali. Io voglio ricordare che le cose che lui descriveva le ha votate sostanzialmente tutte il suo partito, e cioè la legge elettorale, le riforme costituzionali sono state poi, diciamo, Forza Italia ha poi cambiato idea dopo l'elezione del presidente Mattarella Quirinale, ma l'impostazione di queste riforme della legge elettorale sono state assolutamente condivise da Forza Italia, per cui risulta veramente strano sentir parlare poi di regime totalitario e cose che secondo me non, diciamo, non corrispondono alla realtà. Comunque passiamo alle civili. Dunque, io penso fondamentalmente che il Tribunale di Roma, così come il Tribunale di Milano, si siano limitati a tenere in considerazione il migliore interesse del minore, e cioè esiste un bambino o una bambina che crescono in un nucleo familiare riconoscendo due adulti come figure genitoriali, che sono, per dirlo in termini più semplici, le persone che leggono le storie prima di andare a dormire, o che ti accompagnano a scuola, o che ti curano quando sei malato, e il tribunale ha riconosciuto che l'interesse di quei bambini è che quelle due figure, quelle due mamme, quei due papà, siano considerati legalmente mamma e mamma, o papà e papà, nel senso che abbiano i doveri che ha un genitore e che possano esercitare la responsabilità che un genitore ha nei confronti di un figlio. Scalfarotto, però a Sacconi del Nuovo Centrodestra, che subito è intervenuto con un commento e ha detto il tribunale va contro la legge, cosa risponde? No, che il tribunale applica pedissequamente la legge. La legge sulle adozioni prevede appunto un caso di adozioni per casi eccezionali, credo che sia l'articolo 44 della legge, che sostanzialmente dice che quando il minore cresce in situazioni appunto come queste, il tribunale può riconoscere adozione, che è un'adozione però, diciamo così, parziale, nel senso che appunto lei faceva il caso del Tribunale di Milano che ha riconosciuto l'adozione piena. In questo caso non è un'adozione piena, perché per esempio il bambino non stabilisce rapporti con i nonni, cioè con i genitori dell'adottante, quindi è un'adozione limitata e particolare, non è l'adozione cosiddetta legittimante, ma la decisione del tribunale è presa nell'interesse del bambino, cioè non si chiede a nessun bambino come sei nato e ai bambini non si può imputare la condotta dei genitori. Abbiamo finalmente buttato fuori dalla porta la divisione tra figli naturali e figli legittimi. Però Scalfarotto, quando è che invece buttate in Parlamento e fate fare l'iter a questo disegno di legge sulle unioni civili che si aspetta? La capigruppo del Senato ha deciso che le unioni civili saranno votate tra il 26 e il 28 di gennaio. Quindi, è sicuro? In un senso o nell'altro si voterà comunque? Sì, necessariamente, nel senso che la legge non è più in commissione, è arrivata in aula, era stata incardinata in aula già nel mese di novembre e adesso è arrivato il momento della discussione e della votazione, per cui noi il 28 di gennaio avremo un voto auspicabilmente favorevole, ma in ogni caso avremo un voto finale e poi ovviamente il provvedimento dovrà andare alla Camera, perché fino a che la riforma non sarà completata ci vogliono i voti delle due Camere. Certo, quindi il buon proposito per il nuovo anno, questo è uno di questi. Grazie sottosegretario Scalfarotto. Arrivederci, grazie. Grazie, buon Natale. E adesso invece parliamo dei dati dell'Istat sulle donne, che sono 10 milioni di donne che negli ultimi 10 anni, 10 milioni, hanno rinunciato per la famiglia a un posto di lavoro, ad incarichi o opportunità. È sempre la solita situazione questa. E poi l'inquinamento, smog alle stelle, il Comune di Milano decide per il blocco del traffico, tutti i veicoli privati non potranno circolare nel capoluogo lombardo il 28, il 29 e il 30 dicembre dalle 10 alle 16. Allora abbiamo raggiunto l'assessore all'ambiente di Milano, Marrà. Le previsioni meteo ci dicono che la situazione potrebbe portarsi per altre 2 settimane in maniera inerziale. Per questo abbiamo preso questo provvedimento che speriamo, unito al fatto che nel periodo natalizio comunque una riduzione del traffico c'è in maniera fisiologica, speriamo possa contribuire a migliorare un po' la qualità dell'aria. Cioè, ovviamente ci saranno alcune deroghe, ci si deve recare in ospedale, i taxi, insomma, più o meno sul modello di quando si fanno le domeniche a piedi. Auspichiamo che non sia solo a Milano, già diversi comuni tra la città metropolitana e altre città lombarde ci hanno anticipato l'adesione, anche perché tutti gli esperti dicono che più il provvedimento è su scala vasta è più efficace. D'altronde il problema fosse solo a Milano sarebbe un conto, ma è su tutta la Lombardia e non solo in Lombardia. Noi abbiamo già avuto la conferma da parte di Pavia, di altri comuni vicino a Milano, da Sesto a Cinisello, a Bresso, a Cornaredo. Man mano stiamo cercando di tessere noi una rete. Certo che se avesse fatto il blocco la regione sarebbe stato un automatismo indubbiamente più efficace. E poi Federalberghi, che dice che per le feste partono 12,8 milioni di italiani, un più 7,7% rispetto all'anno scorso. A Natale l'86% resterà in Italia e il 14% all'estero. Mentre è in campo, si fa per dire, Dario Ricci per la Serie B. Ciao Dario. Eccomi Roberta. Sì, la Serie A è in vacanza, ma lo sport non manca. C'è anche il campionato di basket che si sta giocando attualmente, e anche la Serie B con le gare della 20ª che sono super giù tutte intorno all'intervallo. Risultati più significativi: il vantaggio per 1-0 del Bari sul Brescia, 2-0 per l'Ascoli sul campo del Livorno, così come in vantaggio sul campo della Pro Vercelli e il Perugia sempre per 1-0, e un altro vantaggio esterno, quello del Latina a Vicenza. Tutte le altre gare al momento sullo 0-0. Grazie Dario Ricci, e con questo ci lasciamo brevemente. Intanto vi aggiorno sulla notizia che è arrivata in questo istante a proposito del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si era riunito oggi per decidere sulla Libia. Vediamo che cosa ha deciso. Luce verde al piano di pace con il governo in 30 giorni. Il Consiglio di Sicurezza ha approvato oggi all'unanimità la risoluzione sul futuro politico della Libia. Il testo dà legittimità all'accordo politico firmato. Vi ricordate, abbiamo parlato il 17 dicembre in Marocco tra i due governi opposti, quello di Tobruk e quello di Tripoli in Libia. Molti vostri messaggi stanno arrivando sia sul bilancio che ha fatto di se stesso del proprio governo Renzi oggi l'inaugurazione della variante di Valico, sia anche su questo tema della stepchild adoption al 349-238-6666 e alla pagina Facebook di Effetto Note, ma comincio a leggerli dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. È lo stesso sentimento di disillusione che avevano molti nostri concittadini quando dicevamo nello stesso periodo dello scorso anno faremo l'Expo e sarà un successo. Questo 2015 si chiude con la variante di Valico, si chiude con l'Expo che è stato un successo, si chiude con Pompei che domani inaugura 6 domus restaurate, si chiude con l'occupazione che torna finalmente a crescere dopo mesi in cui aveva avuto un segno negativo. Si chiude con il fatto che le promesse si possono rispettare. Mentre aspettiamo Graziano, è così, ha fatto è così secondo voi? Questo è il bilancio di Renzi? Sto guardando i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook del programma. C'è per esempio Andrea che dice: un anno fa aveva il 40%, dicevano i sondaggi, oggi appena il 30%. Ecco la risposta degli italiani, e non è finita, dice Andrea, piuttosto critico. Mimmo da Teramo: raramente sono stato d'accordo con Berlusconi, ma stavolta il diavolo mi si porti. Sì, dice, ma Renzi non è una sua creatura. Gli altri messaggi a dopo. Vi ricordo adesso le notizie più importanti della giornata. Banche, ancora scontro tra Italia e Unione Europea, bocciato il salvataggio della Tercas, e intanto è arrivata questa lettera di cui parleremo dopo, mentre l'antitrust dice che la Boschi non è in conflitto di interesse con Banca Etruria. Renzi inaugura, l'abbiamo appena sentito, la variante di Valico, dice così l'Italia riparte, il miglior modo per chiudere il 2015, oggi traffico da bollino rosso. Mattarella che concede 3 grazie, 2 ad americani, e poi ne parleremo anche di questo brevemente. Lo smog che soffoca le città, blocco a Milano, Roma ci ripensa, dice quest'anno è un caldo Natale, quasi 13 milioni in viaggio. Terrorismo, fermata e rilasciata a Palermo una ricercatrice libica, e su questo è scoppiata un po' una polemica. Coppia omosessuale di donne vince anche in appello, sì all'adozione, confermata la sentenza dal tribunale, quella che era la sentenza del tribunale dei minorenni nell'agosto 2014. Dunque, A proposito appunto di terrorismo, sentivate anche nei titoli, facciamo un po' un bilancio, ha fatto Renzi, facciamo un bilancio invece del contrasto al terrorismo islamico da parte dell'Italia, quindi del governo. E in proposito sentiamo in sintesi il ministro dell'Interno Alfano. È stato un anno positivo ed è stato bello poter dire questo grazie così sincero e così forte a tutti coloro i quali hanno consentito che così fosse. Non posso non ringraziare, quindi devo ringraziare anche il Parlamento che ha convertito con grande velocità e con grande efficacia il nostro decreto antiterrorismo, perché questo anno è stato anche un anno di importanti iniziative legislative. Questa notte abbiamo realizzato la 64esima espulsione dall'inizio del 2015 e abbiamo realizzato la 67esima espulsione dalla fine dello scorso anno. Questo ho letto ieri, ministro dell'Interno Alfano. Ci sono degli aggiornamenti anche delle ultime ore. Quattro uomini somali oggi in Sicilia tra i 22 e i 30 anni sono stati arrestati dalla polizia, accusati di aver fornito a connazionali falsi titoli di viaggio per stranieri irregolari che permettevano loro di raggiungere i paesi del nord Europa. E una delle ipotesi degli investigatori è che i proventi di questi documenti falsi, di questa attività, potesse servire a finanziare l'organizzazione terroristica somala Al-Shabaab. E dopodiché c'è un altro caso che sta facendo discutere, sempre di oggi, riguarda una ricercatrice libica di 45 anni, prima fermata e poi rilasciata. Di questo però parleremo dopo, perché voglio chiedere prima a Francesco Tosato, analista del CESI, del Centro Studi Internazionali. Buonasera Tosato. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Se condivide il bilancio invece di Alfano sul terrorismo, è stato un buon anno dell'azione di contrasto al terrorismo in Italia? Guardi, è stato un anno sicuramente molto intenso, perché si è aperto con gli attentati di Charlie Hebdo e poi c'è stata la sfida dell'Expo e poi si è concluso con gli ulteriori attacchi sempre a Parigi. Durante quest'arco di tempo ovviamente tutto quello che è il sistema di prevenzione e intelligence antiterrorismo italiano si è dovuto adattare a questo incremento del livello di rischio ed è stato fatto. È stata chiusa l'esperienza di Expo positivamente, adesso c'è l'esperienza del Giubileo e i livelli sono ulteriormente alzati sia per quanto riguarda il comparto dell'intelligence sia per quanto riguarda le difese proprio attive e quindi la prevenzione fisica. Come tutti possono vedere, sostanzialmente sia il numero delle forze di polizia schierate che anche l'impiego delle forze armate è assolutamente aumentato nell'ultimo periodo e quindi sostanzialmente il paese si sta adeguando a una realtà di rischio che è a livello, diciamo, la media del rischio è più alta di quella dell'anno scorso e di quella di due anni fa. Invece, rispetto a questa storia di questa cittadina libica di 45 anni, dicevo, ricercatrice universitaria nell'Ateneo di Palermo, che è stata fermata dalla polizia a Palermo, poi rilasciata su ordine del GIP in seguito alla mancata convalida del provvedimento. La polizia l'aveva fermata per su ordine della procura, su istigazione a commettere reati di terrorismo. Lei si chiama Kaja Shabbi, accusata di essere in contatto con diversi foreign fighters, quindi coloro che vanno dall'estero a combattere in Siria e in Iraq, e di fare propaganda per Al-Qaeda sul web. Vive a Palermo da tre anni, è ricercatrice in economia, riceve un assegno di 2.000 euro al mese dall'ambasciata libica. I PM di Palermo le contestano appunto l'istigazione a delinquere in materia di terrorismo aggravata dalla transnazionalità, però il GIP di Palermo non ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia, ritenendo insussistente il pericolo di fuga. Su questa cosa però è intervenuto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti, che ha detto: rispettando le decisioni dei giudici, anche quelle che non ci convincono, io credo che ci fossero e fondati elementi per la conferma della custodia. Il giudice è stato di diverso avviso, rispettiamo ma rispettosamente non condividiamo. Ha detto una cosa abbastanza grossa Roberti su questa decisione di rilasciare questa cittadina libica. Qui diciamo ci troviamo di fronte a una dicotomia, nel senso, se si guarda il profilo di questa cittadina da un punto di vista della prevenzione dei reati, quindi da un punto di vista di intelligence investigativo, è chiaro che questo è un soggetto da attenzionare ed è anche un soggetto che molto probabilmente ha dei legami che sono a tutti gli effetti pericolosi per la sicurezza nazionale. Da un'altra parte però, guardandola rispetto a quelle che sono le garanzie costituzionali del nostro paese, è anche evidente che si entra in una fattispecie di reati di opinione che fin tanto che non si materializzano sono anche difficili da punire con la misura cautelare. Questo ovviamente rispetto a quelle che sono le tutele che la nostra Costituzione da sempre dà relativamente ai reati che coinvolgono la libertà di espressione e anche ovviamente diciamo le dinamiche dei reati di opinione. Quindi questo tema è un po' delicato e un po' scivoloso, no? Con questo confine labile tra la libertà di espressione, come diceva Tosato, e l'effettiva poi istigazione a delinquere, a compiere azioni terroristiche. Certo, assolutamente, qui diciamo si tratta di individuare probabilmente un nuovo equilibrio che tenga conto anche delle mutate situazioni e quindi di quanto tuttavia adesso diventi fondamentale misurare anche quella che è l'attività di propaganda e quindi anche di diffusione di determinate ideologie jihadiste, non solo e non tanto rispetto al fatto che una persona se ne faccia megafono, ma anche rispetto all'audience che proprio da quei messaggi possa essere poi diciamo incitata a colpire, per quanto non fisicamente legata alla persona che fa la propaganda. Quindi anche messaggi così generici utilizzando Facebook possono attivare un lupo solitario, per esempio. Quindi è chiaro che bisognerà trovare una nuova sintesi tra quella che è la libertà di espressione, che va assolutamente tutelata, ma anche l'esigenza di evitare di fornire gli strumenti della propaganda a persone che possono essere appunto un pericolo per la sicurezza nazionale. Grazie Francesco Tosato, buon viaggio, perché so che sta viaggiando, e buon Natale allora. Grazie, altrettanto buona festa a lei e agli ascoltatori. Arrivederci. Grazie. Intanto, prima di questa breve pausa di ricreazione, ancora qualche vostro messaggio, ne stanno arrivando tanti su vari argomenti, sia al 349-238-6666, dove inviate gli sms, sia sulla pagina Facebook del programma di Effetto Notte. Allora, dice per esempio Gino da Roma: sono un ex elettore del PD, con questo Presidente del Consiglio non eletto sto rimpiangendo Berlusconi. Poi un altro scrive: Renzi è un ottimista, peccato che nel mondo reale non sia così. A proposito di promesse, la prima casa non doveva essere impignorabile. E qualcun altro, mettete un nome d'arte, io dico sempre quando scrivete i messaggi, piuttosto che nulla, dice: Berlusconi si rode di invidia. A tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana, la settimana di Natale, grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La prima donna regista a vincere l'Oscar, Kathryn Bigelow. Il portiere più pazzo del mondo, René Higuita. Un grande poeta della musica che non va dimenticato, Sergio Endrigo. Un tuffo nel brivido proprio come avrebbe voluto lei, Agatha Christie. E poi tre puntate in una per festeggiare assieme il giorno di Natale. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24. Vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Buone feste a tutti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo ancora insieme fino alle 22, ultima puntata di Effetto Notte del 2015, poi ci risentiamo i primi giorni del 2016. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, tra poco vi riepilogo le notizie più importanti del giorno, perché sapete che vi tengo aggiornati costantemente. Avete sentito all'inizio una sintesi della giornata e poi i vari ospiti, tra poco un altro ospite. Volevo però farvi sentire di nuovo questo bilancio di Renzi, visto che siamo in clima di bilanci. Questo 2015 si chiude con la variante di Valico, si chiude con l'Expo che è stato un successo, si chiude con Pompei che domani inaugura 6 domus restaurate, si chiude con l'occupazione che torna finalmente a crescere dopo mesi in cui aveva avuto un segno negativo, si chiude con il fatto che le promesse si possono rispettare. Così e se dice, le tasse così, vanno giù finalmente, per carità, non è perché l'Europa ci ha consentito chissà che sì. cosa, ma che se l'Italia fa l'Italia non ce n'è per nessuno. Per nessuno. E allora io credo che stiamo veramente dando un segnale di ripartenza. Così ha detto Renzi. È vero? Stiamo dando un segnale di ripartenza? Ritenete positivo il bilancio del governo nel 2015? Leggo alcuni dei vostri messaggi prima di salutare il prossimo ospite, alcuni alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, lo sapete, e i messaggi al 349-238-6666, sono tutti messaggi, questi sono gli sms oppure sulla pagina del programma. Dice Angela: l'occupazione non è salita. E poi un altro ascoltatore: anche Mussolini nei cinegiornali stava vincendo la campagna di Russia. Antonio scrive: chi si loda si imbroda, Renzi è solo un imbonitore, per il sud sarà durissima. Andrea da Sarzana, parzialmente d'accordo, la genialità italiana è indiscutibile, ma per crescere serve organizzazione e rispetto delle regole, la pubblica amministrazione è deleteria in questo senso e rischia di affondare il paese. Ma adesso torniamo su tutte le altre notizie. Sempre la vicenda delle banche in primo piano. In una lettera alla Commissione europea avverte il governo italiano l'uso della garanzia sui depositi aiuto di Stato. Intanto l'antitrust dice nessun conflitto di interessi per la Boschi. Grandi opere, Renzi inaugura dopo 9 anni di lavori la variante di Valico sulla 1, ma oggi lunghe code. Secondo Federalberghi per le feste partono 12,8 milioni di italiani. Terrorismo, fermata e poi rilasciata a Palermo una ricercatrice libica è accusata di istigazione al terrorismo. Il GIP la rimette in libertà, non c'è pericolo di fuga, dice, ma il procuratore antiterrorismo Roberti non condivide. Unioni civili, la Corte d'Appello di Roma dice sì a 2 mamme per la stepchild adoption. Il terremoto in Abruzzo, scarcerato il preside Livio Bearzi, che era in detenzione per il crollo del convitto scolastico all'Aquila nel 2009, affidato in prova ai servizi sociali. Inquinamento, lo smog soffoca le città, blocco delle auto a Milano dal 28 al 30 dicembre. E quindi anche Salvatore Chicco Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, se in quei giorni lavorerà con la metropolitana. E Chicco, con la bicicletta, il monopattino, vedi tu. Assolutamente. Bene. Andiamo col monopattino. Andiamo a questo bilancio di questi ultimi giorni di effetto notte della politica italiana, perché poi è andata in vacanza. Fino al 12 gennaio il Parlamento non riprende i lavori. Comunque, diciamo, gli argomenti principali: ieri il voto di fiducia al Senato, che ha dato il via libera definitivo alla legge di stabilità, che ieri ci hai spiegato molto bene. Bene, Chicco, anche se teniamo sempre presente che ci sono sempre nuovi milioni e milioni di ascoltatori ogni puntata, e poi la ramificata vicenda delle banche, le banche fallite e salvate. Sulla legge di stabilità sentiamo ieri il commento del ministro dell'economia Padoan. Padoan prima era un po' silenzioso, sentiamolo adesso. È una legge di stabilità che rafforza e accelera la crescita, ci sarà uno stimolo per gli investimenti, oltre che abbattimento delle tasse per le famiglie, quindi la crescita sarà più forte e più ricca di occupazione. Non solo sostiene la crescita e il lavoro, ma indirizza risorse importanti per i poveri, per i meno abbienti, per i giovani, anche in vista del nuovo modo di affrontare le sfide di sicurezza. Questo dice il ministro Padoan. Però per quanto riguarda, allora, Renzi l'abbiamo già sentito nel suo bilancio del suo anno governativo, però sentiamo Giarrusso invece all'opposizione del Movimento 5 Stelle e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Prima Giarrusso. 1 miliardo di euro dei fondi per garantire la sicurezza del paese dati per la cultura, metà per dare una mancia ai diciottenni. Caro governo, se pensi che basti comprare il voto dei diciottenni, e non lo comprerete il voto dei diciottenni, sappiate che non vi basterà, perché non potrete comprare il voto di tutti gli italiani, di 60 milioni di italiani che non le vogliono più vedere queste cose. Questa è una legge indegna. 600 milioni di euro sulla povertà per la legge di stabilità sono una vergogna. Ho fatto un rapido calcolo delle marchette che i governi di sinistra hanno fatto in questi anni alle banche, siamo a circa 32 miliardi. 32 miliardi alle banche, 600 milioni per 4 milioni di poveri, dà bene l'immagine di che cosa stia facendo il governo di sinistra. Allora, Chicco Padula, è tutto positivo il bilancio di Renzi e soprattutto questa legge di stabilità? Tu mi fai sempre delle domande difficilissime. Caro, se no non ti chiamerei. Ma no, insomma, io penso che Padoan dica una cosa, il ministro Padoan dica una cosa giusta, cioè è una legge di stabilità che può essere contestata per mille motivi, i 500 euro ai giovani, le mancette, eccetera, sono tutte cose condivisibili, però diciamo è innegabile che per una volta la legge di stabilità, che in genere sappiamo arrivano queste leggi qui e poi uno se le guarda bene, questa ha 999 commi, no? Un articolo unico e 999 commi, poi le guardi bene le leggi e trovi qua che ti aumentano la tassetta, di là aumenta l'IVA, di là aumenta un'altra cosa. Questa legge di stabilità, almeno da questo punto di vista, è diversa, è una legge di stabilità che ha un prezzo che, del quale magari poi parleremo, però è una legge di stabilità che interviene con un taglio deciso, strutturale, mi auspico, speriamo, di tasse che diciamo valgono circa 4 miliardi e mezzo solo sugli immobili. Poi ieri sera abbiamo ricordato anche dei 16 miliardi di tasse che non aumenteranno nel 2016 e che invece sarebbero dovute aumentare perché sono vecchie clausole di salvaguardia, di tagli di spesa che non siamo riusciti a fare. Però diciamo, qual è un po' il prezzo e qual è, se vuoi, anche il giochino di tutto? Che il governo ha fatto una scommessa, ha fatto una scommessa anche con l'Europa, perché questa legge di stabilità è finanziata, è spesata, è pagata in gran parte in deficit, cioè il debito aumenterà il prossimo anno di 14-15 miliardi, forse 16. Nel senso, Chico, che si mettono sul tavolo dei soldi che ancora non ci sono? Nel senso che noi diciamo aumentiamo il nostro rapporto deficit-PIL e troviamo in questo modo 16 miliardi in più. Con l'indebitamento, cioè mettendo nuovi titoli del debito pubblico che adesso non ci sono, faremo nuovo debito per pagare questa legge finanziaria. È una scommessa, perché quando Padoan dice che è una manovra espansiva, in quel senso è vero, perché ci sono, insomma, in genere le tasse quando si possono tagliare, cioè tu le puoi tagliare le tasse o se tagli le spese oppure se introduci nuove tasse. In questa manovra non si fa né una cosa né l'altra. Quindi il finanziamento per queste tasse che vengono tolte o per gli aumenti che non ci saranno nel 2016 viene fatto con l'indebitamento. È la prima volta, era da tanto tempo che non accadeva una cosa del genere. In genere le finanziarie, le leggi di stabilità devono trovare al loro interno le risorse per pagare, no, il bilancio dello Stato. Quest'anno non viene fatto perché l'Italia chiede all'Unione Europea la possibilità di usare quelle famose clausole di flessibilità, cioè noi diciamo alla UE, guardate, ci impegniamo su tre cose, ci impegniamo a portare a termine le riforme, ci impegniamo a fare investimenti e poi ci impegniamo, diciamo, a spendere i quattrini per l'accoglienza degli immigrati e per la sicurezza sostanzialmente. Grazie a queste tre voci qui noi diciamo alla UE che il nostro rapporto deficit-PIL aumenterà di un 1% rispetto al punto in cui avremmo dovuto fermarci, che vale appunto circa tra i 15 e i 16 miliardi. Che cosa succederà? Innanzitutto noi non sappiamo se l'Unione Europea ci dirà sì, bravi, potete, diciamo, sforare i parametri comunitari. Questo lo sapremo un po' più avanti, lo sapremo ad aprile, quindi magari ad aprile scopriremo che ci sarà bisogno, insomma, Renzi mi sembra molto determinato e andrà avanti, probabilmente non accetterà i richiami della Commissione Europea, però insomma il rischio che a un certo punto l'Europa ci dica voi state sforando i vincoli, i paletti comunitari, non è una cosa così fantascientifica, esatto, insomma. Esatto. Chico, senti, invece sulla questione delle banche, lo ricordo, ormai ne abbiamo parlato e riparlato, questa ramificata vicenda delle banche prima fallite poi salvate, il crack delle quattro banche, Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti, con le polemiche tra l'Unione Europea e il governo italiano che poi si sono rinnovate anche con questa lettera di cui si parlava oggi da parte dell'Unione Europea, le critiche agli organi di controllo, Banca Italia, Consob, poi le inchieste che sono state aperte e poi l'investitura di Cantone da parte di Renzi per gestire l'arbitrato per i risparmiatori colpiti da questi crack, il voto di sfiducia che però non è passato alla ministra Boschi. Oggi tra l'altro c'è l'antitrust, l'autorità che regolamenta la concorrenza e il mercato, che ha detto a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle no, la ministra Boschi non ha un conflitto di interessi. Sentiamo prima Marcucci del PD che propone una commissione d'inchiesta bicamerale e poi Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle. In realtà il Partito Democratico vuole assolutamente fare chiarezza sull'attività di vigilanza, sul sistema nel suo complesso, e lo vorrà fare con una commissione bicamerale d'inchiesta da fare subito e che entri immediatamente in vigore. Il sistema Renzi, di questo si tratta, questo Presidente del Consiglio delle Banche ha voluto comunque creare confusione, perché il nostro sospetto è che molte persone che hanno ricevuto dei soldi da Banca di Etruria, banca comunque diciamo riconducibile alla famiglia Boschi, molte di queste persone siano collegate con questo giglio magico che ha finanziato l'ascesa politica del Presidente del Consiglio, che è diventato appunto prima segretario del Partito Democratico e poi Presidente del Consiglio non dei ministri ma delle banche. Abbiamo ancora diciamo 74 secondi, Chico Padula, come commenti questa vicenda ora così in chiusura d'anno? Ma guarda, tu insomma hai fatto un riassunto perfetto di questa vicenda. Troppo no? Che, no, nel senso che questa è una vicenda che va a toccare aspetti molto diversi tra di loro, no? C'è un problema di vigilanza e di controllo sulle banche ed è evidente insomma che qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto. C'è un problema di tutela di risparmiatori, ora scenderà in campo Cantone con la sua autorità, però è evidente che se ci affidiamo a Cantone vuol dire che gli organismi che normalmente dovrebbero presiedere a quel tipo di attività non funzionano, oppure non ci fidiamo bene di questi organismi. C'è un problema enorme di rapporti con l'Unione Europea, perché oggi c'è stata una lite direi abbastanza feroce su quello che l'Italia poteva fare, su questo scambio di lettere, sul peso, sul valore di queste lettere, eccetera. Io devo dire, quando sento parlare di commissioni bicamerali di inchiesta, avendo ormai non qualche anno insomma abbondante sulle spalle, ti viene l'orticaria, mi viene per l'orticaria caso? Perché non ci credo tanto a queste cose, alle commissioni parlamentari di inchiesta. Qui insomma ci sono tante cose da fare, non penso che la via della commissione parlamentare sia quella giusta, ma è evidente che bisogna fare chiarezza su tutto, perché questa è una vicenda dalla quale bisogna ritrovare la fiducia verso le banche come istituzioni, perché un paese, un sistema economico non può vivere se non ha alle spalle un sistema bancario solido e del quale tutti ci fidiamo. E ci vediamo di te profondamente, caro Chico Padula, Salvatore Chico Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ti auguro buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao Chico, ci ritroviamo il nuovo anno. E ci sono diversi vostri messaggi, un ascoltatore che dice definisce Renzi arrogante, presuntuoso, bugiardo, incompetente, questi sono solo alcuni degli aggettivi per definirlo. Andrea da Firenze, ho ascoltato il discorso della variante, ma Renzi in che nazione vive? Non in Italia sicuramente. E poi molti altri piuttosto critici. Adesso però sentiamo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, visto che siete molti a viaggiare. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Alessandro da Treviso al 349-238-6666 dice sì, quello dice Renzi, tutto vero, mancano solo i treni in orario, poi ci siamo al migliore dei mondi possibili, e chiude molto criticamente. E c'è anche Mariella sulla pagina Facebook di Effetto Notte che dice sì, Berlusconi vedeva i ristoranti pieni e lui la ripresa e il successo dell'Expo, secondo me è la stessa ripresa, secondo Maria Elena. Mentre anche più o meno le notizie sono le stesse, ma ve le ricordo quelle principali della giornata, che sono ancora la questione banche, ancora scontro come avete appena sentito tra l'Italia e l'Unione Europea, e poi l'antitrust che dice la ministra Boschi non è in conflitto di interesse sulla banca Etruria, Renzi che inaugura la variante di Valico, dice così l'Italia riparte, il miglior modo per chiudere il 2015, traffico molto intenso oggi da Bollino Rosso intanto, e poi lo smog che soffoca le città, blocco a Milano il 28, il 29 e il 30 dicembre, Roma intanto ci pensa, e poi terrorismo, fermata e rilasciata a Palermo una ricercatrice libica, e con le polemiche di cui abbiamo parlato, e poi una coppia omosessuale, una coppia di donne che vince anche in appello sì all'adozione, è stata confermata quindi la sentenza emessa dal Tribunale dei minorenni nell'agosto 2014. E poi il lavoro, i dati dell'Istat, circa metà delle donne fa rinunce grosse per la famiglia, ma in 8 milioni sono capofamiglia. Europa 24 notte. Parliamo di droni che, tra l'altro, non so se avete visto altre notizie oggi, sono particolarmente diciamo d'attualità, perché questo drone che in una pista da sci ha preso lo sciatore Hirsch, anzi per un pelo non l'ha preso, proprio l'ha sfiorato durante la gara, lo si vede cadere con tutti i suoi 10 kg a proprio un millimetro dallo sciatore. Bene, comunque non è che cadono sempre così facilmente. Urge comunque una nuova normativa europea per l'appunto. È l'industria del futuro con 5 milioni di europei che vi lavorano attualmente. continente, con centinaia di miliardi di euro che contribuiscono al PIL del vecchio continente. Parliamo appunto dei droni, ormai sempre più diffusi non solo in ambito militare ma anche commerciale e ricreativo, non sciistico, si spera. Manca un quadro di regole certe che assicurino un uso sicuro, appunto, e nel rispetto della privacy. Commissione e Europarlamento ci stanno lavorando, sentiamo allora Isabella De Monte, componente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, al microfono di Alessandra Schepisi. Linea di massima, quello che si vuole nel settore dei droni è avere una regolamentazione che sia proporzionata, certamente, perché se parliamo dei giocattoli è un discorso, se parliamo invece di veri e propri simili aerei è un altro discorso. I due pilastri sono quelli della sicurezza e quello della privacy. Difficile sempre però conciliarli, no? È sempre un po' difficile conciliarli, però comunque queste sono infatti l'osservazione proprio fatta anche dalla commissaria Bulc, era in questo senso che chiaramente ci deve essere, bisogna conciliare gli interessi, per questo si parla anche di proporzionalità, no? Della normativa rispetto. Però essendo un settore in grande sviluppo, soprattutto per gli apparecchi piccoli, ma ci sono anche già ad esempio dei corsi che stanno facendo i piloti per il pilotaggio remoto, c'è l'urgenza di intervenire, perché comunque come detto un settore di industria in grande sviluppo riveste interesse per tutta la ricaduta anche economica, però è necessario avere un'armonizzazione anche normativa, perché altrimenti, come in tutti i settori, corriamo il rischio poi di avere una situazione a macchia di leopardo, dove addirittura le regioni intervengono, gli stati intervengono, quindi dobbiamo evitare che ci sia confusione, perché comunque chi investe deve avere anche la certezza del diritto, no? Non può avere situazioni differenziate localmente. Alla luce anche di questa allerta terrorismo, ci sarà una regolamentazione in questo senso? Ma non è specifica per il settore del terrorismo, perché comunque c'è un'applicazione che in prospettiva sarà sempre più nel settore civile, ad esempio nel campo anche delle calamità, quindi se intervenire in un incendio mi è più agevole farlo con un drone piuttosto che con un aereo pilotato direttamente sull'apparecchio. Per cui sì, più che una ristrettezza di campo contingente, in realtà si vuole regolamentare un po' tutto il settore, perché può avere numerose applicazioni. È anche ovvio che c'è una paura da parte di alcuni politici, cioè alcune parte dei gruppi, che nel momento in cui riduci anche i piloti c'è sempre il pericolo, come avverrà comunque tra 7-8 anni anche nel campo peraltro dei mezzi, dei camion, è inevitabile che ci sia un discorso tecnologico che ha delle ripercussioni anche nel campo dei posti di lavoro. Però è chiaro che al tempo stesso la tecnologia non è che possa essere frenata, va avanti, e quello che noi dobbiamo essere in grado di fare è trasformare comunque l'occupazione, dando chance a tutti, ecco, essere preparati anche nella formazione. Queste nuove regole quando potrebbero arrivare? Beh, il pacchetto aviazione c'è stato appena sottoposto, quindi è difficile dire, però vedo molta attività da parte della Commissione, quindi il settore trasporti è molto attivo, ecco, certamente si vuole comunque un risultato già a partire dal 2016. Quindi nei prossimi mesi? Sì. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Sì, c'era la proposta di abbattere il Turchino per far uscire la nebbia. Questo Maroni che scherza per risolvere il problema della nebbia, dello smog. Ne parliamo con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, portatore sano di sole. Paolo, perché qui sì, sai che soffocati dallo smog, dall'inquinamento, sì, foschia, niente pioggia. Guarda, è effettivamente una battuta improponibile, però se ti ricordi Portobello, a Portobello. Ma certo, se uno sbocco sul Tirreno per la pianura padana sarebbe un toccasana, perché il problema è proprio che siamo in un catino chiuso in gran parte del nord Italia, c'è lo sbocco solo verso l'Adriatica e se non si fa corrente lo smog purtroppo ristagna. E tra l'altro questa situazione meteorologica non favorisce appunto la situazione, non la migliora, perché ancora per una decina di giorni alta pressione, situazione, quindi la situazione non cambia fino a fine anno con i suoi pro e i suoi contro, perché al centro-sud addirittura si toccheranno i 15 gradi, c'è chi magari sarà anche contento di questo, però appunto niente neve, niente pioggia, situazione anomala, ecco. Quindi tu dove andresti per quelli che possono passare le vacanze altrove, Paolo, non per sapere i fatti tuoi, ma così cosa proporresti? Perché... Beh, guarda, non ti nascondo che quest'anno ho optato per il mare, perché in montagna purtroppo gli appassionati di sci dovranno accontentarsi della neve sparata, quindi situazione non ottimale. Però è anche vero, Roberta, che a partire proprio dall'inizio di gennaio la situazione cambierà, arriveranno le perturbazioni atlantiche, quantomeno torneranno ad avvicinarsi all'Italia, porteranno finalmente un po' di neve in montagna, quindi chi ha la possibilità di allungare le vacanze magari fino alla Bessona può darsi che nella seconda parte trovi condizioni un po' più invernali, come è giusto che sia, insomma. E se no ci va dopo, Paolo Corazon. Esatto, certo. Grazie Paolo, buon Natale a te. Grazie, ciao Paolo. Tanti auguri a tutti, ciao Roberto. Ciao. E buon tempo comunque sia. Io fra l'altro volevo ringraziare anche tutti coloro, come faceva mio padre, che mettono le lucine fuori dalle finestre, dai balconi, dai giardini, perché devo dire che ognuno ha proprio gusto, propria fantasia, e sono come in questo buio generale una specie di sorriso dello spirito natalizio, una specie di sorriso luminoso che regalano a chi passa. Davvero sento molto di essere grato a queste persone, perché rendono un po' l'atmosfera, il fatto di girare nelle città o nei piccoli paesi un po' diverso. Ci risentiamo alle 22.